piacere che qualche volta abbiate detto anche voi: ma che mistero è mai la vita? Ma che mistero è mai l'uomo? Ma che mistero è mai la donna? Che mistero è mai Dio? Dio è mistero, come lo sei tu, perché tu sei immagine, fotografia viva del Dio vivente. Per me sono stati momenti di esperienza teologale quelli in cui ho detto: ma che mistero sono mai io? Ah, e lei come rispondeva: il mistero di Dio. Buttati in ginocchio anche in questo momento in cui ti senti schiacciato dal tuo mistero, che è il mistero di Dio. Chi ci ha creati? Dio, il misteriosissimo Dio, che riempie di sé l'universo, lo supera, e tu con gli occhi del corpo non riesci a coglierlo, tanto ti abbacinerebbe la vista, perché supera infinitamente tutte le tue capacità ottiche, visive. E quando mi sono trovato come confessore davanti a qualche fratello, veramente dalle mani grondanti sangue, io ho incominciato a fare il sacerdote appena finita la guerra, quella guerra che negli ultimi mesi era diventata guerra fratricida. E io, sudando, prima di dare quella soluzione come in persona di Cristo, mi dicevo tra me: mio Dio, che mistero quest'uomo che ho qui davanti in ginocchio. Mio Dio, che mistero. Il mistero di Dio. E tu assolvilo, che lo impone Dio, che per salvare questo assassino si è lasciato assassinare lui. Doveva essere assassinato Barabba e ha alzato la mano lui. Vado io per Barabba. Assassinate me, ma non assassinate lui. Il sacerdote che assolve, se ha un po' di fede, così assolve, sentendo di trovarsi tra due misteri, quello di Dio, impazzito di amore, e quello del povero diavolo che sta davanti, il povero peccatore, che ha vergogna di se stesso. Che mistero è l'uomo, che mistero quel Dio che l'ha fatto e quel Dio che l'ha redento, lasciandosi assassinare piuttosto che fosse assassinato Barabba, il delinquente matricolato. Sono momenti di esperienza mistica che auguro anche a voi, amici, anche se non avrete la fortuna di assolvere un peccatore, ma anche voi sentirete qualche volta nella vostra coscienza di essere un mistero. Credevo di conoscermi dopo tanti anni che sono al mondo e mi accorgo d'essere un mistero. Quante incognite dentro di me! Quante incognite! A volte aspirazioni sublimi, pronto a togliermi il pan di bocca per far carità, e a volte invece dalle mani così tirchie, così egoistiche. Volta l'occhio, a volte mi pare che il cuore scoppi quando faccio una preghiera nella solitudine della mia casa, del mio ambiente di lavoro, e a volte invece dalla bocca mi escono le bestemmie. Che mistero sono! Credevo d'aver vinto per sempre quel viziaccio e mi sento ancora preso per la gola da quello stesso viziaccio. Ho maledetto e deprecato quel vizio più volte e adesso me lo trovo ancora fra le mani. Che mistero sono! Davanti ad ogni uomo noi siamo davanti al mistero di Dio. La misteriosa freschezza di un bimbo innocente è la meravigliosa, stupenda rinascita di un peccatore pentito. Due esperienze di cui è piena la terra, la società umana. Mistero di Dio, l'innocenza di un bimbo, mistero di Dio, la rinascita di un peccatore pentito. Mistero di Dio, siamo ciascuno di noi. Quando siamo pieni di vigoria, pieni di salute, pensavo così, quando voi oggi, specialmente dopo il primo e il secondo, eravate così ciarlieri, io sentivo l'eco di questa vostra bella conversazione. Sì, mistero di Dio siamo quando godiamo piena salute, mistero di Dio quando abbiamo la febbre, mistero di Dio. Oh, il professor Zanuso, non ricordo bene il nome, ma cognome sì, chirurgo per tanti anni a Negrar, ospedale, benedetto ospedale del Sacro Cuore di Don Calabria. Quando venne a salutarmi prima dell'operazione, mi disse: Don Igino, non abbia paura, guardi che io sono solito dire tre Ave Marie ogni volta che entro nella sala operatoria. Non prendo mai in mano il bisturì senza avermi raccomandato, senza aver pregato, senza aver scongiurato la Madonna e i Santi, il Cielo, il Padre Eterno. Perché ogni malato, mi ha detto, è un mistero. Ci possono trovare sorprese? Si può pensare che uno cambi chissà quando? O che l'altro possa morire, debba morire e torna indietro? Io non affronto mai la sala operatoria senza aver detto prima tre Ave Maria.